Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia, sono le 11.10. Voglio salutare e ringraziare subito Roberto Scaltritti in regia la parte tecnica e Laura Vanossi in redazione. Oggi parliamo, lo facciamo regolarmente tutti i giorni insieme a voi, ma oggi vorrei riflettere insieme a voi su un dato. Quante volte avete sperimentato in prima persona che parlarsi non vuol dire necessariamente capirsi? Avete detto qualcosa, per esempio, che è stato spaventosamente frainteso, oppure avete attribuito il significato sbagliato ad una comunicazione ricevuta e solo molto tempo dopo vi siete resi conto dell'errore commesso. Ma perché la comunicazione è così tanto a rischio di farci cadere nell'incomprensione? E quali sono le variabili in gioco quando comunichiamo? Quelle che possono aiutarci o quelle che possono invece mettere in crisi la ricezione corretta del messaggio che vorremmo dare e far arrivare? Insomma, lo sappiamo tutti per esperienza, comunicare a volte è un percorso a rischio, ma come scopriremo oggi può essere sottoposto a regole, pensate a regole scientifiche, e in qualche modo quelle regole noi le possiamo conoscere, imparare e soprattutto utilizzare bene. È quello che cercheremo di fare oggi insieme a voi e insieme ai nostri ospiti. Intanto vi ricordo subito il nostro numero verde 800 24 00 24. I messaggi al 349 238 6666, c'è sempre il nostro profilo Facebook e anche le nostre mail a esserebenessere@radio24.it. Spero di avervi comunicato in modo adeguato e corretto il modo per mettervi in contatto con noi, perché oggi in linea abbiamo il professor Giorgio Maria Bressa, docente di psicobiologia del comportamento umano all'Università IPU di Viterbo. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, benissimo con voi. Questo mi piace. Professore, qua c'è uno studio molto affollato. Abbiamo Alberto Pellai, che ieri è stato richiesto a gran voce. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Voglio presentare per bene anche te. Ricercatore all'Università di Milano, psicoterapeuta, papà di 4 figli e papà di questa casa non è un albergo. È vero, per cui sabato è medico. È medico. Abbiamo anche qua in studio Claudio Belotti. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Master trainer in PNL, programmazione neurolinguistica, e anche coach, quindi noi lo traduciamo un po' come allenatore. Esattamente, possiamo farlo. Sì. Tra l'altro, autore di un audiolibro, Allenamenti mentali in 60 minuti, comunicare con successo. Sì, è un audio corso, un audiolibro che dura poco, un'ora, dove aiutiamo le persone a capire come possono comunicare meglio. Allora, cercheremo di farlo. Professor Bressa, iniziamo a dire che insomma la comunicazione è qualcosa di complesso, ha dei prerequisiti. Per comunicare deve esserci un interlocutore che, anche quando ci sembra non reagire, non è mai del tutto passivo, quindi attenzione ai finti tonti. Professor Bressa. Posso entrare nella cronaca di qualche secondo fa, perché mi sembra splendido questo, una cosa che è successa 10 secondi fa e che entra esattamente nel tema, vale a dire Michele Santoro è stato sospeso per 10 giorni per avere detto vaffa ai vertici dell'azienda. Comunicazione efficace. Comunicazione efficace, Alberto. Senza entrare nel merito, ma proprio perché è accaduto 10 secondi fa. Allora c'è un interlocutore naturalmente con il quale dobbiamo rapidamente squadrare e individuare e cercare di capire le modalità per le quali noi entriamo in comunicazione con lui, quindi definire quello che banalmente è un piccolo progetto, durerà 20 secondi, 2 minuti, 5 minuti, una vita, ma è un progetto di comunicazione. Secondo, sapere le sue attese, perché se vogliamo essere efficaci, quindi ottenere dei vantaggi nel comunicare, necessariamente le nostre attese le conosciamo, quelle dell'interlocutore è possibile di no, e quindi anche lì rapida squadrata, cercare di capire quelle che possono essere le sue attese. Terzo è il linguaggio, naturalmente adeguarlo, adattarlo ai modi in cui possa essere rispettato, primo il progetto, naturalmente secondo le attese. Ultimo punto, grande attenzione al non verbale, perché se la comunicazione verbale può essere efficace, è molto facile che con atteggiamenti non verbali che sconfermino quella verbale si rischia fraintendimento e quindi l'efficacia va a farsi friggere. Alberto, quasi quasi non ti parlo più, perché se devo tenere sotto controllo tutte queste cose mi sento già stanca. Però è vero, perché una proprio caratteristica della comunicazione che non cade mai nel vuoto, proprio viene interpretata da chi la riceve, sino a volte a trasformarsi in qualche cosa di diverso. Insomma, quello che conta è, Alberto, la comunicazione all'arrivo, non alla partenza, no? Il messaggio che rimane al termine di una comunicazione non è ciò che è stato comunicato, ma ciò che è stato trattenuto e compreso dal ricevente. Comprendao? Sì, perché il ricevente è proprio il terminale che svolge numerose operazioni sul messaggio che è stato comunicato. Intanto cominciamo a dirci: il messaggio è partito, come arriva quel ricevente? Perché possono esserci distorsioni, rumori di fondo, interferenze che ne indeboliscono notevolmente la potenza. Il secondo aspetto è che il ricevente deve fare delle operazioni abbastanza complesse. Intanto deve decodificare il codice che è stato scelto dalla persona che ha comunicato con lui. Io so bene due lingue, lui mi parla in inglese, in questo momento sto parlando in italiano, ecco che devo automaticamente fare un cambiamento, uno switch nella mia mente. Poi devo attribuire un significato dopo aver analizzato il messaggio che mi è arrivato. E qua è interessante anche nella relazione genitori-figli, su cui noi ci esercitiamo tutti i sabati. Io posso dire: adesso basta, oh bambino, no, adesso basta. Glielo posso dire in modo fermissimo, sono solo io e lui nella stanza. Se io uso una voce molto autorevole e sicura, questo blocca il mio bambino. Ci sono mamme deboli: no, dai, adesso basta, per favore, e il bambino va avanti. Succede così anche un po' con i cani, eh? Esattamente lo stesso modo, perché è un buon allenamento. C'è una complessità di fattori che vanno interpretati. Claudio Belotti: la PNL è una scienza che ci viene in soccorso. Io però proverei a dare una definizione di questa, sì, programmazione neurolinguistica, perché in qualche modo conoscerla ci può aiutare a essere più efficaci. Intanto volevo chiedere ai miei ascoltatori da casa se si sentono dei buoni comunicatori o se hanno la sensazione di parlare tante volte a vuoto, e lo fanno magari in alcuni ambienti in particolare: a casa, nessuno mi capisce, oppure al lavoro o nelle storie d'amore. Ma Claudio Belotti, a lei. Ecco, sì, la programmazione neurolinguistica viene definita come lo studio della percezione soggettiva. In altre parole, per semplificare, ci aiuta a capire proprio come le persone comprendono la nostra comunicazione, perché, come abbiamo detto, devono fare un lavoro e il lavoro viene fatto in funzione di quello che loro pensano, di come pensano, della loro storia personale, cultura e molti fattori che pregiudicano, cioè noi pregiudichiamo, diamo un giudizio precedente. E quindi la programmazione linguistica, che è un'americanata, quindi una cosa molto pratica, ha capito che ci sono sempre stati comunicatori migliori di altri, e invece di reinventare la ruota abbiamo studiato questi grandi comunicatori e abbiamo capito che fanno tutti le stesse cose più o meno. Quindi noi possiamo studiare Obama o Martin Luther King o la principessa Diana o Gesù Cristo di Nazareth e riscontrare caratteristiche comunicative molto comuni, che sono, ad esempio, tutte le cose che sono state dette finora. Obiettivi, non parlare come mangiamo, come si dice nel proverbio popolare, ma parlare come mangia il nostro interlocutore. Cioè adattare la nostra comunicazione, non nel contenuto ovviamente, ma nei modi, al nostro interlocutore. Parlando di bambini, non parlerei mai a un bambino nello stesso modo in cui parla un adulto. Non, certo, spiegherei mai un concetto nello stesso modo. Quindi il primo compito del comunicatore è chiedersi qual è l'obiettivo e immediatamente chiedersi con chi sto comunicando, qual è il modo migliore per comunicare con questa persona. Allora, molti di voi, immagino, avranno magari nei prossimi giorni o forse oggi qualche cosa da comunicare che gli sembra particolarmente difficile. Io, ad esempio, a volte, no, provo davanti allo specchio quando ho dei nodi da sciogliere, allora vado davanti allo specchio e inizio a dire e provo e faccio le prove. Non so se sia una buona scelta, però oggi per tutti gli ascoltatori di Essere Benessere che si sentono un po' affannati, angosciati, in dubbio, indecisi, non sicuri di un messaggio che sta a loro particolarmente a cuore, fatevi aiutare, perché io ho gli esperti e ve li metto a disposizione. Quindi voi, Claudio Belotti, noi dobbiamo dire che cosa dobbiamo comunicare, dobbiamo tratteggiare la figura del nostro interlocutore e raccontare quello che per noi è il passo più difficile. E voilà, noi vi aiutiamo. Ad esempio, l'esercizio dello specchio può essere molto utile. Un altro esercizio molto utile è quello di immaginare di essere la persona, cioè diventiamo la persona alla quale comunicheremo, e immaginiamo di avere noi stessi che diciamo quello che stiamo dicendo. Ma non lo vediamo con i nostri occhi, non lo ascoltiamo con le nostre orecchie, ma lo vediamo e lo ascoltiamo con gli occhi e con le orecchie del nostro interlocutore. E poi attenti, perché un buon comunicatore deve essere flessibile. Ma ci sono delle regole, professor Bressa, lei le ha già anticipate, della comunicazione, dei principi. Noi ve li facciamo ascoltare, prendiamo poi un esempio che abbiamo così preso da situazioni che abbiamo sentito in TV, da spezzoni di film, e li commentiamo e iniziamo proprio, come si dice, non so se si dice bene, passare dalla teoria alla pratica. Primo principio. Nella nostra società c'è poca disponibilità all'ascolto degli altri, che è invece la base della comunicazione. Io ti ho sempre seguita, non ho mai detto che a te non mi piace. Però sto giro, secondo me, sono andata oltre. Maria, a lei poteva rifiutare. A lei piace che si parli di lei. Ma non c'hai consultato! C'è una tenirista. Professor Bressa, è un classico. È il mercato di Marrakesh. Una delle mode che mi sembra stia emergendo è l'uso molto assertivo fatto quando succedono questi tipi di comunicazione caotica da parte di qualcuno che fissa negli occhi il suo interlocutore e dice: tu devi farmi finire perché io ho fatto finire te, cosa che è regolarmente non avvenuta, ma che sembra definire ad un certo punto è una sorta di trattativa, cioè non è vero che tu, io ti ho fatto parlare, però adesso io, rievocandoti che forse tu lo hai fatto, ti metto in condizione di stare quei 5 millesimi di secondo col senso di colpa, interrompe di parlarmi sopra e io riprendo il sopravvento. In realtà spessissimo è una questione di potere, e quando dicevo appunto la definizione dell'interlocutore accennavo anche a questo nella mia mente, cioè è inevitabile che in una comunicazione si stabilisca subito chi ha più potere, perché può essere un genitore con un figlio, possono essere due pari ma di cui uno è più alto o più anziano, possono essere due persone con un ruolo sociale diverso. Questo è già una caratteristica entro la quale quasi automaticamente, attraverso il rispetto del potere, la persona che ne ha di più o a cui viene dato per definizione maggiore potere sa di potersi muovere con uno spazio maggiore, e chi sta dall'altra parte ha però dalla sua la strategia di mutuare proprio il proprio atteggiamento con grande ascolto deferente, per poi infilare, dopo che la relazione si è così stabilita, il proprio pensiero sicuro di essere ascoltato. Andiamo al, o abbiamo ascoltato con attenzione, andiamo al secondo principio. Quando si parla, non sempre si sa con precisione ciò che si vuole dire, e spesso capita di non trovare le parole giuste per dirlo. Ma che è successo? Che è successo? Ah, tu chiedi a me che cosa è successo? Ci vuole solo il coraggio tuo. Tu chiedi a me che è pazzesco. Cioè, tu chiedi a me che cosa è successo? Io dico, guardami. Guardami come sono ridotta, che sono un cencio. Il fatto è che tu non ti accorgi più di me. Non è vero. Ma come non? Non è vero, non ti accorgi. Non ti sei neanche accorto che mi sono tagliati i capelli di 1,5 mm. Tu non ti accorgi più di me perché pensi sempre al lavoro. Ecco la verità. Sempre al lavoro, devo andare al lavoro, c'ho da fare al lavoro. Adesso torno dal lavoro, ho capito. Però se tu vuoi, cosa voglio io? Ma no, ripeti, cosa voglio io? Che t'ho chiesto io? Io non t'ho chiesto niente, bello. Che t'ho chiesto io? Eh? Invece te sempre con questo lavoro, sempre col lavoro, sempre col lavoro. Ho capito, e allora cosa vuole una donna? Amore. Se non mi capisci, io parlo d'amore e tu non mi capisci. Allora forse dico, forse il sentimento, la passione, le cose va bene e tu non mi capisci. Allora io dico, forse è la nostra storia, metto l'impegno e quasi che va bene la palestra e che si figludi e che se fai sacrifici, questo e questo non mi capisci. Io se ne vuoi, chi se ne vuole, tu non mi capisci, tu non mi capisci. Io ho voluto stare, io vale che dire, e tu non mi capisci. Ma se parli così, chi te capisce? Abbiamo Alessandro da Roma, buongiorno Alessandro, benvenuto. Buongiorno, grazie, buongiorno. In quale delle due situazioni lei si è riconosciuto? Ma forse la prima sicuramente. Io sono un agente di commercio, no? E pertanto è ovvio che faccio molto utilizzo della voce e del comunicare. E volevo chiedere appunto al dottore se c'è qualche trucchetto, qualcosa, cioè, anche quando ci si trova un po' in imbarazzo o viene un po' di quell'ansia, no? Per rompere questa ansia e comunicare. Allora, Claudio Belotti ha un caso per lei. Allora, buongiorno. La prima cosa, dobbiamo sempre ricordarci che siamo tutti esseri umani. E quindi anche i nostri interlocutori hanno le loro ansie, i loro imbarazzi. Uno se li immagina anche in, esatto, no? È un classico. Uno, esatto, se li immagina in bagno oppure, esatto, ma in una situazione in cui, ad esempio, molte persone si vergognano di non ricordare il nome di una persona che le è appena stata presentata. È un problema che hanno praticamente tutti. Quindi mal comune mezzo gaudio. La prima cosa da pensare è: va bene, ho un po' di ansia, ma ce l'ha anche il mio interlocutore ed è normale, e questo già toglie un po' di stress. La seconda cosa è: stiamo tranquilli, ricordiamoci che l'obiettivo della comunicazione, e l'intervento del professore prima è stato eccellente, non è aver potere, ma è comunicare. Comunicazione vuol dire azione comune, quindi condividere qualcosa. Se poi riusciamo anche a convincere i nostri interlocutori, e questo è il nostro obiettivo, molto meglio. Ma l'obiettivo è lo scambio. Se noi imparassimo a scambiarci le idee piuttosto che imporcele, forse molte ansie, molte paure verrebbero meno. Noi adesso abbiamo i mercati, ma volevo anche riflettere su questo aspetto prima, poi andremo sul terzo principio, ci raggiungerà anche Laura Pigozzi, con cui parleremo di qualche cosa dell'X Factor di alcune voci, quello che può fare la differenza. Però ci sono delle frasi che ci dice quello che abbiamo davanti, che ci fanno saltare, no? Tutti i nostri buoni propositi. Ad esempio, no, non hai capito. Ecco, o frasi di questo tipo, Alberto, ce ne sono diverse, no? Che rompono un po' tutto questo percorso circolare di scambio di comunicazione. Non so se possiamo anche lavorare su questo, quello che dell'altro ci blocca e che ci impedisce quindi di andare all'obiettivo. Alberto, una battuta prima dei mercati. Io credo che lì la parola chiave sia il feedback, cioè rilavorare su: magari ho sbagliato a interpretare, aiutami a capire cosa realmente mi volevi dire, perché se io sto su quella frase che mi ha così attivato e non vedo nient'altro, molto probabilmente entro in un conflitto che è proprio poi l'opposto del comunicare bene. Mercati, quindi parliamo. Che cosa della nostra comunicazione ci piace, dove ci sentiamo, no, a nostro agio, e là invece dove zoppichiamo e abbiamo bisogno di una stampellina, io ve ne offro ben, adesso ce ne sono tre, ma ne arriverà una quarta. 800 24 00 24. Parliamo oggi, parliamo per l'appunto di comunicazione efficace, un tema che abbiamo scelto per sottolineare tutte le trappole, tutte le difficoltà, gli ostacoli che incontriamo quando dobbiamo metterci in relazione con l'altro o con gli altri. Abbiamo parlato di principi, ne abbiamo già ascoltati due e c'è il terzo principio, andiamo. Il nostro inconscio, che si esprime attraverso le emozioni, può bloccarci o portarci a dire cose che non vorremmo. Mamma, mi ascolti per favore? Ma ascoltami un attimo, se parli solo tu. Sto tagliando delle verdure. Ma certo che ti posso ascoltare, posso fare due cose insieme, sai? Allora, ascolta un attimo, non ci si separa alla vostra età. È fuori di... Ma cosa si... C'hai 75 anni, papà 81, che cosa vi siete parati a fare? Spiegamelo, che cosa ti cambia nella vita? L'avvocato? Ma quale incompatibilità di carattere? Mamma, ti prego, ma se papà non ti ascolta è perché è sordo, non ti sente. Non è incompatibilità, è sordità, mamma, papà non sente. Professor Bressa, Margherita Bui, a me piace molto, a lei? Molto, moltissimo, decisamente, anche perché ha un bel modo di comunicare. Sì, perché ecco, comunica anche quando non parla, con gli occhioni. Sì, sì, vabbè, magari ci sta ascoltando. Se ci sei, batti un colpo. Però l'inconscio, tante volte diciamo una cosa per un'altra o cerchiamo di trattenere dei pensieri e invece vengono fuori. Quanto conta? Quanto rende il nostro messaggio efficace? Se esce fuori, se si presenta, se perfora la nostra barriera di controllo, vuol dire che ha un senso, e se ha un senso ha quasi certamente anche un valore, non è detto che abbia un'efficacia. Se però ci rendiamo conto, quando è uscito fuori, che nell'altra parte ha smosso qualcosa, perché sia verbalmente che non verbalmente l'interlocutore è stato colpito, allora vale la pena di fermarsi appena un secondo e tornare sullo stesso tema ridefinendolo, cioè presentandolo non più come qualcosa che è sfuggito al nostro controllo, ma che in realtà voleva emotivizzare la nostra comunicazione e quindi è parso fuori contesto. In questa maniera la sua efficacia viene ribadita, abbiamo la possibilità di recuperare, se nella comunicazione, non parlo della comunicazione tra due amici, sto intendendo in qualche maniera una comunicazione efficace che abbia un senso e anche una funzione, perché ci deve portare dei vantaggi, perché ci deve permettere di esprimere dei chiarimenti. Bene, il recupero sul piano emotivo, questa fase nella quale qualcosa che ci è sfuggito viene ripreso, perché abbiamo visto che ha colpito nel segno, e viene ridefinito, quindi riusato. Quindi magari non lo lasciamo cadere, ma lo recuperiamo. E voglio coinvolgere anche Laura Pigozzi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Docente di Cante di psicanalisi della voce, autrice del libro A nuda voce, vocalità, inconscio e sessualità, tutte esse. Dottoressa Pigozzi, il professor Bressa dava un'indicazione, quindi la sua è recuperare e approfondire. L'inconscio tradisce, ma ci offre anche delle occasioni per entrare in relazione con l'altro. Sì, l'inconscio nella voce si manifesta in maniera molto precisa e con la precisione di un punto di verità. Quindi sono molto d'accordo con quello che diceva il professore prima. E questo punto di verità è talmente vero, talmente forte, che va recuperato, magari non subito, magari non cambiando il nostro messaggio, però lì c'è qualcosa che appunto c'è qualcosa di vero finalmente, qualcosa che finalmente è uscito con la forza appunto di... Ed è quello invece, Claudio Belotti, che tutti temono. Magari poi mi faccio prendere dall'emozione, dico cose che non vorrei dire. Sicuramente il buon comunicatore è una persona flessibile e che sa adattarsi alle situazioni, agli imprevisti, quello che in radio, in TV si dice il bello della diretta. Ma traducendolo in un'indicazione pratica? Assolutamente flessibilità, assolutamente verità. I grandi comunicatori sono veri. Molti di loro sono professionisti, hanno lavorato, usano bene la voce, usano bene il non verbale, ma non dimenticano mai di essere veri, perché gli esseri umani rispettano e apprezzano gli esseri umani. Noi siamo persone che hanno emozioni, perché nasconderle? Noi siamo persone che abbiamo difetti, perché nasconderli? Pensate a qualsiasi comunicatore, grande comunicatore, ce lo ricordiamo perché ci ha dato un'emozione. E non ci sono modi di dare emozione agli altri se non le abbiamo noi. Quindi perché combattere le nostre emozioni? Usiamole, sono nostre alleate, non sono nostre nemiche. Dobbiamo solo conoscerle e usarle. Alberto, nel tuo lavoro di psicoterapeuta, è un grande lavoro di comunicazione e di restituzione. e quindi sia il modo in cui tu mandi dei messaggi che nel modo in cui li recepisci si costruisce un percorso. Quanto è importante, quante queste dinamiche, queste variabili che abbiamo analizzato entrano in gioco? Ma credo che nella psicoterapia proprio stare nella relazione e nella comunicazione interpersonale con metodo, offrendo anche proprio al proprio paziente la tranquillità della sicurezza, che dall'altra parte qualsiasi mia comunicazione di paziente è accolta, probabilmente è interpretata anche con significati che a me è necessario far vedere, far capire. Questo è fondamentale. Due esempi molto concreti. Io credo che sia molto interessante per un terapeuta sentire a volte il suo paziente che gli racconta delle cose terribili della sua vita e intanto contemporaneamente sta cercando di sorridere. Quindi c'è una negazione automatica tra l'intensità di ciò che ti sta dicendo, il cosa ti sta dicendo e il come. Quel falso sorriso probabilmente nasconde uno dei problemi principali su cui la terapia dovrà andare a lavorare. Ci sono tante volte, dottoressa Pigozzi, noi parliamo con una persona e non la sentiamo vera proprio perché percepiamo uno scollamento tra quello che ci dice e il suo linguaggio non verbale, la faccia, l'atteggiamento della bocca, lo sguardo oppure le mani. Adesso c'è una grande attenzione, forse esagerata, a questo linguaggio non verbale, ma istintivamente noi siamo in qualche modo guidati. Dottoressa Pigozzi. Sì, la verità viene fuori anche appunto dalla voce. Infatti io dico spesso che la voce non mente, esattamente come il corpo. Infatti la voce è il punto di contatto, se vogliamo, il missing link tra la psiche e il corpo. Per quel che riguarda i pazienti, si vede come le loro voci cambiano in seduta, non solo diciamo durante tutta la fase della cura, della terapia, ma anche a volte nella stessa seduta, quando c'è qualcosa che sta per venire fuori, sta per arrivare, un punto appunto di verità, la voce cambia, si arrocchisce, ha uno sbalzo tonale, c'è una piccola tossetta, c'è qualcosa che sta arrivando, è preparato spesso dalla voce. E questo ascolto, che è l'ascolto dello psicanalista anche, sulla voce, è decisamente importante, è una guida indispensabile. C'è anche un X factor nella voce, possiamo definirlo così, o meglio il timbro blu. Ne parliamo tra poco. Viabilità. Siamo tornati. Io, leggendo A nuda voce di Laura Pigozzi, ho scoperto questo timbro blu e mi sono chiesta quanto magari se gli ascoltatori riconoscono nei conduttori questo timbro blu, e quanto, a parte delle mie scelte, della fiducia, no, che do ai miei interlocutori o quando mi chiamate, ecco, è in qualche modo guidata dal timbro blu. Il timbro blu, un attimo di magia, ma non di sola illusione. Un bagliore di verità si è manifestato, un punto di autenticità che fa restare stupiti. Un suono può dire meglio, con più precisione di una parola. Ciò che è in gioco nel timbro è il suono nel suo mistero e non nella sua funzione di supporto al significante. Se un interprete è più amato di un altro, a cui si riconosce una eguale bravura, classica in questo senso fu la divisione tra gli ammiratori della Callas e della Tebaldi, è per la capacità del suo suono timbrico di interpellare il soggetto che ascolta, sorprendendolo nelle vibrazioni più intime. Un insegnante di canto, ad esempio, riconosce dal timbro, in un nuovo allievo, l'artista che diverrà. Il resto è tecnica, che si può e si deve imparare. Ma il timbro particolare, inaspettato ed emozionante, c'è o non c'è? Timbro e tecnica sono i due elementi indispensabili al canto e alla voce. Un bel timbro senza disciplina resterà un canto amatoriale, e una tecnica senza timbro produrrà il canto senza anima di un replicante, di una macchina canora. Dottoressa Pigozzi, lei ha ascoltato le nostre voci, le voci dei nostri ascoltatori. Chi è al timbro blu? Il timbro blu è qualcosa che non è che si ha o non si ha, che si è per qualcun altro, è nella relazione. Infatti il timbro blu ha a che fare soprattutto con l'amore. In questo caso classica non tanto, ma insomma comunque interessante la storia del pittore Kandinsky. Kandinsky venne interpellato da questa aristocratica giovane russa al telefono perché voleva allestire una sua mostra. E lui l'ascoltò, ma poi subito dopo le chiese un appuntamento. Perché però, si era, non ci sono più gli uomini di una volta. Si era innamorato della sua voce. Ma la cosa straordinaria è che appena finita la telefonata lui dipinse un acquarello intitolato Omaggio ad una voce sconosciuta. 2 mesi dopo si sono incontrati e qualche tempo dopo si sono sposati. È stata la seconda moglie di Kandinsky, forse anche la più amata. Lui che era un visivo si è innamorato a prima voce. Alberto, questo timbro. Roberta da Roma, buongiorno. Pronto? Roberta? Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Siamo... Posso parlare? Certo che deve parlare, oggi si parla. Buongiorno a tutti, grazie di quello che avete detto, è molto interessante. Questo discorso del timbro blu è estremamente affascinante. Il timbro blu mi è venuto in mente ora, proprio quando l'ho sentito, ce l'aveva e ce l'ha mio marito. Perché quando, io posso dire di essermi innamorata di lui dalla voce. Ah, vede. È una voce al telefono, soprattutto al telefono, eccezionale. Perché com'è? Che voce ha suo marito? Chiamiamolo. È difficile definirla, non era il mio intervento questo, ma adesso l'ho pensato nel momento. Certo, che l'ho fatto sentito. Bene. È una voce, forse per quello che diceva la dottoressa, vive, una voce che vive la relazione con estrema amore, probabilmente. Quindi attraverso la sua voce io ho capito, senza rendermi conto, moltissime cose. Senta Roberta, comunque... ma lei che ha questo marito con questo timbro blu, lei si sente una buona comunicatrice? Riesce a dire le cose che vuole e soprattutto a far sì che l'altro le recepisca? Io avevo telefonato proprio per dire questa cosa. Io non ho mai avuto problemi a comunicare con chiunque e dicevo alla signorina con chi mi ha trattenuto un pochino... Sì. Che secondo me sono due le cose essenziali per avere questa capacità. La prima è tecnica, cioè la conoscenza della lingua, perché io ho una conoscenza, lo posso dire con presunzione, appartengo a una generazione che studiava molto bene l'italiano, sì. Quindi avendo una grande capacità dialettica riguardo alla lingua italiana, potendo usare tutti i tipi di verbi, in tutti i tipi di modi, senza difficoltà, con questo l'aiuta. Parole di quelle conosciute oggi grazie alla mass mediale e alla televisione, che sono pochissime. Sì Roberta, parole, però io devo, lei è un'ottima comunicatrice ma io ho poco tempo, quindi padronanza della lingua e poi qual è il suo segreto? La seconda è l'identità personale. Quindi buttarsi anche un po' fuori. Avere un temperamento capace di comunicare e di ascoltare con molta sicurezza, cioè un'identità personale abbastanza forte, cresciuta, non immatura, ecco, non persone che non sanno chi sono. Grazie, la ringrazio per essere intervenuta. Io andrei a... abbiamo tanti ascoltatori. Anna da Milano, buongiorno. Buongiorno. Allora, il mio caso è proprio di questi giorni. Sì. Allora, prima cosa, complimenti. Allora, io faccio molta difficoltà a parlare, a dire quello che penso, o la mia opinione, o impormi, quando mi trovo davanti delle persone molto decise e aggressive. Sì. La cosa importante, direi, che a questo punto io sbaglio completamente il mio approccio, sbaglio a parlare, mi viene il magone, quindi... I componenti negativi sono tantissimi. Facciamola subito aiutare da Claudio Belotti, perché poi voglio raccontarvi che cosa si sono detti 15.000 oncologi a Milano. Claudio. Allora, è un caso classico. Io stesso nella mia vita ho avuto la stessa difficoltà. Fino a quando mi sono reso conto che spesso le persone aggressive sono aggressive perché sono o timide o impaurite. Quindi non facciamoci mai prendere dall'illusione, o non lasciamo che le paure di altri risveglino le nostre paure. Facciamo un bel respiro, facciamo un bel sorriso interiore, come ha detto la signora ieri, l'identità interiore, e sappiamo che quello che abbiamo da offrire ha un valore. Poi se l'interlocutore avrà la cortesia o l'intelligenza di cogliere il nostro dono, bene, altrimenti Va bene comunque, il valore del dono non è direttamente proporzionale al fatto che uno l'accetta o no. E adesso ci colleghiamo con il dottor Roberto Labianca, direttore del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia agli Ospedali Riuniti di Bergamo, presidente del Comitato Italiano del Congresso che si è svolto proprio, si è concluso ieri a Milano, 15.000 oncologi. Buongiorno dottore. Buongiorno. Avete, noi la inserisco proprio in chiusura di una puntata in cui parliamo di comunicazione. Benissimo. Ecco, grazie. Avete comunicato molto, tanti risultati. Io vorrei che lei ci desse, magari facesse proprio il punto della situazione rapidamente, perché poi a questo convegno, alle novità che sono emerse, dedicheremo naturalmente approfondimenti. Dottore. Questo è il congresso europeo di oncologia. Teniamo conto che in Europa nel 2008 ci sono stati in tutto 25 milioni di persone con tumore, quindi quelli che hanno avuto nuovi tumori e quelli che sono vivi per fortuna col tumore, quindi l'importanza di comunicare rispetto a questo. Noi oggi abbiamo nuove possibilità di diagnosi precoce, nuove possibilità di capire meglio la biologia, cioè le caratteristiche specifiche dei tumori, e per fortuna abbiamo nuove possibilità di cura. Questo ce lo siamo detti in questi 4 giorni e mezzo a Milano. Quindi messaggi assolutamente positivi, rimane comunque la prevenzione, la diagnosi precoce, professore, dottore. Questo è molto importante, ma noi abbiamo anche voluto mettere in risalto l'importanza di vivere bene per coloro che hanno incontrato il tumore e che sono guariti. Quindi si è parlato per esempio molto di riabilitazione in questo congresso. Ho detto 25 milioni di persone vive che hanno avuto però un tumore, queste persone devono essere assolutamente aiutate ad avere una vita, non solo dal punto di vista della salute, ma anche psicologico, sociale, familiare e tutto quello che volete, lavorativo, assolutamente normale. Quindi ci siamo presi anche il grosso impegno di lavorare sempre meglio sulla riabilitazione. Grazie dottor Labianca per essere stato con noi, ringrazio i miei ospiti Laura Pigozzi, Claudio Belotti, il professor Bressa, Alberto Pellai, il Consiglio del Sale. Mi raccomando, tenete duro, dopo 2 settimane il nostro gusto si addomestica, si abitua. Andate sul sito, scriveteci, vi mandiamo i consigli a casa, essere benessere @radio24.it. Buona giornata.